Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Non è andato tutto bene, no. È il titolo di un film, ma è anche la realtà, una realtà che molte volte non ci viene raccontata, è una realtà che grazie a Paolo Cassina, regista, ha già dato luce agli invisibili con una sua narrazione in docufilm precedente a questo lavoro. Non è andato tutto bene, che sarà sabato 6 aprile al Nuovo Nosadella alle ore 15. Precedentemente con gli invisibili si parla di vaccini e effetti avversi di tutto ciò, con tante persone che sono rimaste invalide e non solo, anche in maniera irreversibile per quanto riguarda questa terapia discutibile. E con un'attenzione particolare Paolo Cassina ne porta testimonianza. Oltretutto aggiungo anche che non vi è stata e non vi è un'attenzione per chi ha vissuto questo aspetto invalidante da parte dello Stato, da parte delle istituzioni. Sono appunto ritenuti completamente invisibili, cioè le loro patologie in seguito a tutto ciò non è stata riconosciuta, non è stata assolutamente risarcita, se si può parlare di risarcimento, sono appunto rimasti invisibili. Questo un focus nella narrazione precedente. Per quanto riguarda questa, un percorso più esteso del periodo che tutte e tutti purtroppo abbiamo vissuto, ed è un docufilm, adesso si usa questo termine, no? Che è particolarmente, purtroppo aggiungo, anche se importante, esteso con diversi contenuti, e ho voluto assolutamente, anzi ringrazio Laura Lorenzetti, ringrazio anche Andrea Gozza per questi collegamenti e per portare al Breakfast Club il lavoro di Cassina, che sarà sabato 6 aprile alle ore 15 in via Ludovico Berti al Nuovo Nosadella. Direi di iniziare la conversazione con il regista. Conversazione con un argomento al quale noi siamo veramente molto attenti: la situazione pandemica trattata in un determinato modo veramente molto discutibile. E noi siamo con il regista Paolo Cassina dal film Non andrà tutto bene, che sarà sabato 6 aprile al Nuovo Nosadella a Bologna. E quindi le do il buongiorno, benvenuto sulla nostra emittente Paolo. Buongiorno e grazie mille per l'invito. Parliamo allora di quel periodo, un periodo che, come ho detto, per usare un eufemismo, discutibile. Discutibile perché, come viene trattato secondo la visione di questo saggio su pellicola che ha portato? Sì, allora io ho cercato di ricostruire chiaramente quello che sono stati i 3 anni, diciamo, della cosiddetta pandemia. E l'ho fatto appunto andando cronologicamente, per cui partendo dal lockdown e evidenziando le contraddizioni del lockdown, per arrivare poi a mio giudizio a quello che sono stati i gravi illeciti e le gravi mancanze che sono state fatte nella cura dei malati Covid, per cui ricordiamo tutto il protocollo paracetamolo e di gira attesa con cui le persone venivano sostanzialmente lasciate a casa a peggiorare per poi trovarsi malati gravemente, diciamo, negli ospedali, e dove lì a volte purtroppo non c'era molto da fare, oppure protocolli ospedalieri che non sono stati usati in maniera corretta proprio negli ospedali, ci sono stati favoriti dei farmaci molto costosi e attorno a cui ci sono comunque dei gravi sospetti, diciamo, di, diciamo, collusioni, perché sono stati fatti degli acquisti veramente molto costosi di questi farmaci e sono state boicottate invece terapie domiciliari e ospedaliere che si basavano su farmaci, diciamo, molto molto economici e che potevano essere usati tranquillamente per curare la maggior parte dei casi di Covid. E poi non dimentichiamoci chiaramente della cura al plasma del dottor De Donno, che viene chiaramente affrontata anche nel docufilm, e che è stata boicottata in tutti i modi appunto perché era una cura diciamo democratica e non costosa. Sono state favorite invece delle cure molto molto costose, come verrà appunto, diciamo, raccontato nel docufilm. Poi parlerò nella seconda parte degli obblighi vaccinali, proprio di questi cosiddetti vaccini che sono arrivati, passando chiaramente tutti i controlli, diciamo, che di solito vengono fatti per l'utilizzo di questi farmaci. Non c'è stato nessun controllo, diciamo, da parte degli enti che dovevano, diciamo, appunto controllare che queste sostanze non fossero nocive, non avessero delle controindicazioni. Sono stati distribuiti a pioggia a tutti, anche alle categorie più fragili, come tutti noi chiaramente ricordiamo. E poi la cosa grave è soprattutto che sono state imposte attraverso il meccanismo del Green Pass, del cosiddetto Green Pass, per cui chiaramente c'è stato questo ricatto nei confronti di varie categorie di lavoratori in varie fasi, per poi culminare appunto con tutti i lavoratori che dovevano sottoporsi a tampone. E poi addirittura col Super Green Pass non bastava neanche più il tampone, per cui erano quasi costretto a vaccinarsi per non rinunciare totalmente alla sua vita sociale, alla sua vita lavorativa, alla sua vita pubblica. Per cui questo, secondo me, è stato veramente un grave illecito da parte, diciamo, del governo, diciamo, di quel periodo. Sì. E poi andrò ad affrontare anche chiaramente quello che è stato l'argomento di Invisibili del mio documentario precedente, e cioè le reazioni avverse da questi cosiddetti vaccini, che sono veramente all'ordine del giorno e colpiscono veramente decine di migliaia di persone, al contrario di quello che non ci viene raccontato dalla maggior parte dei media mainstream. Certo. Tantissimi argomenti, diciamo, a cui ho cercato di dare un filo logico e una struttura, diciamo, di un certo modo, che sarà, diciamo, aiutata nella narrazione da tantissimi personaggi, tantissimi professionisti, fra i quali spiccano tre giornaliste, diciamo, molto molto in gamba e molto anche famose nel mainstream, che sono Angela Camuso, Marianna Canè e Tiziana Alterio, che è un'altra giornalista molto indipendente, che però ha fatto parte anche lei, diciamo, del sistema mainstream fino a qualche anno fa. Per cui persone veramente di grandissimo livello e che assolutamente non possono essere tacciate di essere novax o di essere altri, diciamo, aggettivi che sono stati usati in questi anni. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on Report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. Conseguenze ovunque, per non dimenticare, perché si fa presto e abbiamo poi, tra l'altro, con la suefazione che corre, ne abbiamo motivi, anche se stiamo parlando di sanità, mi permetto di usare un termine, ne abbiamo dei motivi di anestetizzare. Non lo dimenticano di certo chi ha riportato effetti irreversibili, e non solo, anche chi ha avuto situazioni ben più gravi in seguito a tutto ciò, le contraddizioni diverse. Gli aspetti, poi ho cercato di toccare tutti i temi con Paolo Cassina per il film Non è andato tutto bene. Ricordate il famoso slogan, andrà tutto bene? No, e già c'era chi lo diceva al tempo. Sabato 6 aprile al Cinema Nuovo Nosadella, via Ludovico Berti, alle ore 15. Procediamo quindi, perché, come vi ho detto, ho cercato con il regista di toccare ogni aspetto riguardante tutto ciò. Sì, aggiungo un aspetto a proposito di questa sua argomentazione, che condivido in toto. Aggiungo anche un aspetto divisivo gravissimo tra persone che magari fino al giorno prima la pensavano per argomenti importanti, la pace, la sanità, il lavoro, allo stesso modo si sono ritrovate divise su tutto ciò e in maniera molto ghettizzante. Questo è trattato nel suo lavoro? Certo, sì, nella, diciamo, nella parte in cui si parla appunto degli obblighi vaccinali, del Green Pass, ci saranno delle testimonianze di gente comune, per cui famiglie e genitori, che vanno appunto a raccontare le discriminazioni che hanno subito sui propri figli e su loro stessi, e le difficoltà che hanno avuto, per cui sicuramente sì. E penso che comunque il tema sia importantissimo, e purtroppo alla base di questo ci sia stato, come accennavo prima, un inganno, perché queste sostanze sono state spacciate appunto per salvavita, salvate il vostro nonno, salvate la vostra famiglia. Bene, questa narrazione, come verrà appunto dimostrato nel docufilm, era completamente falsa, perché poi si è scoperto che addirittura è stato esternato da una dirigente Pfizer al Parlamento europeo che queste sostanze assolutamente non proibivano il contagio, per cui questo Green Pass era sostanzialmente inutile. Per cui è stata fatta questa discriminazione, questa divisione assolutamente in maniera arbitraria e non corrispondente a quella che era la realtà dei fatti. La collusione di poteri forti, tra l'altro, altro aspetto importantissimo, altro aspetto divisivo è quello sulla successiva e adiacente, poi cronologicamente parlando, conflitto con, lo vediamo, è ancora purtroppo sulla cronaca, quello che è il conflitto tra Russia e Ucraina. Insomma, anche questo, a mio modo di vedere, però non voglio poi unire diverse argomentazioni sotto la stessa tematica, però stiamo parlando di percorso pandemico e quello che è successo immediatamente dopo nel conflitto in Ucraina. Ma restiamo sempre sulla parte legata alla pandemia. C'è anche chi si è arricchito in tutto ciò? Beh, questo è poco ma sicuro, ed è agli onori della cronaca di proprio di questi giorni il fatto che sia stata aperta un'indagine sulla presidentessa della Commissione Europea Ursula von der Leyen, e ora, a scoppio ritardato, dopo 3 anni, dopo 2 anni e mezzo, sta saltando fuori, diciamo, questi messaggini privati che lei si è scambiata con la di Pfizer, e con cui ha acquistato 20 miliardi, se non vado errato, di vaccini, per cui che sono aggiunti ad altre svariate decine di miliardi, per un totale, se non sbaglio, di 74 miliardi spesi dall'Unione Europea per queste sostanze, di cui la maggior parte sono finite al macero. Qui stiamo parlando di miliardi di soldi nostri, e chiaramente ci viene detto adesso in questi giorni, in questi mesi, che non ci sono soldi per la sanità, per rimettere a posto le strade, per mettere in sicurezza il paese, quando sono state spese decine di miliardi per sostanze, posso dire, dannose, che non hanno fatto assolutamente la differenza in questa pandemia, diciamo, per usare un eufemismo. E i soldi erano quelli di tutti noi, per cui veramente uno spreco senza limiti, penso il più grande scandalo nella storia recente, diciamo, europea, italiana e mondiale in generale. E poi, oltre a questo, ci sono stati tantissime altre persone che si sono arricchiti. Io ho potuto toccare con mano queste cose perché ai tempi della pandemia lavoravo per un programma, diciamo, di cronaca, per cui ho potuto veramente seguirle da vicino queste situazioni. Sono state persone che si sono fatte milioni di euro con mascherine, con tamponi, è stato un business miliardario. Nel documentario verranno trattate anche questi aspetti, che certo, verrà dimostrato tramite proprio anche ricerche scientifiche, diciamo, non assolutamente contestabili, come questi tamponi, per esempio, erano totalmente inaffidabili, completamente, hanno dato adito anche a, cioè, hanno dato vita a falsi positivi, falsi negativi, con persone che anche sono finite in ospedale. Era anche dimostrato che anche le mascherine che noi usavamo, diciamo, di continuo, che sono state imposte anche all'aperto, cosa veramente allucinante, non avevano sostanzialmente nessun valore, tanto è vero che i sanitari, per esempio, nonostante fossero mascherati, negli ospedali si ammalavano comunque, le persone in famiglia si ammalavano lo stesso, per cui sì, ci sono stati veramente tanti tanti aspetti su cui vale la pena di fare luce. Why don't you sit down? I can't sit down. Sit down, I told you. I can't sit down. Go away, don't bother me. I can't sit down. 'Cause I just got to heaven and I can't sit down. Who's that yonder dressed in white? I just got to heaven and I can't sit down. Looks like the children of the Israelites. I just got to heaven and I can't sit down. Who's that yonder dressed in red? I just got to heaven and I can't sit down. It looks like the children that Moses led. I just got to heaven and I can't sit down. Why don't you sit down? I can't sit down. Go away, don't bother me. I can't sit down. 'Cause I just got to heaven and I can't sit down. I like that. ne abbiamo prese, complottisti, negazionisti, Novax, chi più ne ha più ne metta. Tra l'altro io sono vaccinato, quindi. E io sto aspettando al varco tutti con l'Ucraina. E guarda caso sono saltati fuori però i soldi per le armi. Comunque, come ho detto, non voglio mettere assieme diverse realtà di argomento, tra l'altro gravissimo. Concludo con in tutto ciò un controllo sociale? Beh, penso proprio di sì, perché chiaramente il Green Pass è stato uno strumento di controllo sociale. Questo penso che sia sotto gli occhi di tutti ormai, per cui chiaramente se avevi il Green Pass entravi, se non l'avevi non entravi. Tutta questa cosa chiaramente era, finiva in un database per cui tutti sapevano assolutamente gli affari di tuoi, per cui nella totale disprezzo della regola della privacy, per cui e se ne comincia a parlare adesso, il Green Pass, ricordo, non è stato totalmente annullato, ma è lì parcheggiato. Sopito, per cui sì. è uno strumento che ancora, diciamo, grava sulle nostre teste nel caso saltasse fuori una nuova pandemia, cosa che ci stanno prospettando, diciamo, senza neanche nascondercelo troppo. E poi si stanno affacciando anche altri strumenti, per cui si parla comunque di digitale, no? Per cui di accedere a tutti i servizi, diciamo, per la persona solo tramite un ID digitale, per cui sicuramente si va verso, vogliono che si vada verso quel tipo di società, e a mio giudizio Green Pass è stato il primo vero grande esperimento. Io penso, mi sento di suggerire alle persone, agli ascoltatori, assolutamente di non cadere in queste trappole, per cui di opporsi assolutamente, di tutelare la propria privacy, i propri diritti fondamentali contro queste imposizioni. Io la ringrazio tantissimo Paolo. Il film è Non andrà tutto bene, sabato 6 aprile al nuovo Nosadella a Bologna. Le auguro una buona giornata, la ringrazio per la disponibilità, per questa conversazione, e a presto, buona giornata. Grazie mille a voi, a presto. There ain't no time, no time for sorrow. And we ain't got time, no time, oh, time to be sad. And maybe the world ain't what it could be, but to understand why is to know reality. Oh, don't give in. Voce a tutti, e ci mancherebbe, dal buongiorno anche a Terenzio che scrive con motivo di critica, come ho detto, a me il signore sembra un tantino negazionista, poi passiamo all'Ucraina, sull'Ucraina sarebbe una trattativa subito, basta armi. Grazie Terenzo, non sempre i pareri sono condivisi, a parte quello sull'Ucraina che indubbiamente ci mancherebbe, però ti auguro una buonissima giornata, continuiamo a interagire con il Breakfast Club di Radio Città Fugita. I'm just a part of your dream, this I know, but I'll do whatever possible. Non è andato tutto bene, in proiezione, sarà in proiezione sabato 6 aprile alle ore 15 al Cinema Nuovo Nosadelli in via Ludovico Berti a Bologna. I said hang on in there. E io vi aspetto questa sera al binario 69, Guglielmo Pagnozzi, Paolo Maggi, l'accompagnamento e l'accoglienza con il DJ set, con il convivio al binario 69, apertura con il last minute dedicato alla musica. In seguito siamo andati, e non possiamo perdere assolutamente, con la rubrica in mostra l'esposizione a Magnani Rock dedicato a Bruno Munari. Abbiamo chiuso con questo last minute dedicato al cinema, ringraziando il regista Paolo Cassina per questa estesa conversazione. L'appuntamento è a domani, andremo in scena, avremo altrettanto last minute, tra l'altro in vigilia di weekend. Io vi auguro un buon ascolto, una buona giornata. Il Grande Rock con Angela Zocca e Andrea Gozza sarà dalle 10.30 alle 12.30. Vado a ritroso, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. abbiamo anche Liberi Dentro, che sarà anticipato dall'EDPE enciclopedico a breve in frequenza sul 103.1. Vi ringrazio per l'attenzione, con un caloroso abbraccio vi do appuntamento a domani e vi auguro un buon giovedì. Ciao a tutte e ciao a tutti dal vostro William Piano. Child, a friend, and a wife. They all want to share your life. Ain't that enough to make you wanna hang on? Hang on. Hang on.